Ben arrivati nella mansarda del Dr. Pirates. Parleremo di Underworld, che come Resident Evil arriva alla fine. Forse. Ritornano i vampiri vestiti in pelle. Lo stile un po' alla Matrix, un po' gotico, è stata una delle armi vincenti di Underworld. Aggiungiamoci le mazzate, la tempesta di pallottole e anche le cospirazioni, tra e dentro le varie fazioni, e abbiamo una formula vincente. Certo che però dopo 14 anni siamo al quinto capitolo, ed un po' di stanchezza si può anche avvertire. Selene è di fatto da sola contro tutti, ha contro sia i licantropi che i vampiri, e il sangue gioca un ruolo molto importante. Bisogna fare i conti con un po' di cose, tra cui una regista esordiente, che comunque può vantare un sacco di esperienza nel mondo del cinema, e tutti i fatti che sono avvenuti in precedenza. Si può subito notare una costante tinta blu che pervade la fotografia della pellicola. Penso sia stata una mossa azzeccata, abbiamo un effetto notte che non svanisce mai, per intenderci. Il look gotico sexy da Club Dark in una notte di Halloween è sempre in bella mostra, con qualche deriva però, direi fantasy. Accadrà quando vedremo un clan di vampiri dei ghiacci che sembrano usciti fuori da un altro immaginario, e devo dire che la cosa un po' mi ha spiazzato, e molti spettatori con la mente andranno a pescare la barriera di Game of Thrones. E sarà sempre un caso, ma quando poi vediamo quei capelli biondissimi, il déjà vu si fa più intenso. Ed inoltre, il cast è composto da diversi attori di Game of Thrones, tra cui ovviamente il mitico Charles Dance nei panni di Thomas. Le sue interpretazioni sono sempre a livelli altissimi ed esprime carisma da ogni dove. Non si può dire la stessa cosa per tutti gli altri attori, perché alcuni sono espressivi quanto un comodino, vedi ad esempio Theo James nei panni di David. Però tra le note positive abbiamo il cattivo, Marius, il capo dei licantropi. Tobias Menzies arriva anche lui, manco farla apposta, da Game of Thrones, dove dava il suo volto ad uno scemotto completamente opposto rispetto al capo licantropo. È estremamente convincente e la pellicola ne trae giovamento. Bravo. I capitoli migliori comunque per me sono i primi due. Look giusto, combattimenti bestiali, tonnellate di pallottole convincevano. Non si può dire la stessa cosa degli altri, sarà che hanno cambiato regista e per Hermione ha risentito il tutto, in particolare le scene d'azione. In questo capitolo a volte è troppo sbrigative e non curate come si dovrebbe, in particolare quando di fatto coincidono con gli snodi della trama. A parte la consueta dose d'azione, avremo inizialmente ampi spazi dedicati agli intrighi e allo sviluppo della narrazione, che penso riuscirà a catturare però solo i vecchi fan della serie. Infatti la suddivisione in clan e le varie lotte di potere interne ed esterne sono un background importante e si prestano molto a quello che possiamo aver visto magari in un Game of Thrones oppure nei Borgia. Non a caso è da tempo che si vocifera di un Syria e a parer mio sarebbe la cosa migliore per il brand. Potrebbe garantire un ottimo sviluppo della storia, e invece purtroppo guardando a questo capitolo Underworld arriva un po' stanco, un po' fiacco, un po' come è successo a Resident Evil, che però se non altro vantava una Milla sempre in forma. Qui invece Selene non ha la stessa fisicità e forse il tempo passato si fa sentire ed è difficile guagliare l'eroina giunta dalla lontana Ucraina. In definitiva avrete il tipico look di Underworld, da notte perenne, intrighi e sviluppi della trama, alcune volte un po' troppo sbrigativi e liquidati in fretta. Tutto questo caratterizzerà la prima parte del film, ed infine poi avremo le mazzate, quelle vere, e la tempesta di pallottole. A parte le ambientazioni e la bella fotografia, ottima per il contesto, non eccelle veramente in niente. Non ci resta che fare il tifo per la serie TV, perché come ho detto sono fermamente convinto, e lo voglio ribadire, che se eseguita nel modo corretto è la dimensione dove Underworld si potrà esprimere al meglio. Pensate solo a tutti i vari casini, le lotte intestini, i tradimenti, eccetera, sarebbe perfetto. A me piacciono tutte queste cose, e piacciono anche al pubblico, e poi con il giusto look, una bomba insomma. Per ora i fan si accontenteranno di questo capitolo, un po' stanco ma comunque con le sue note positive anche, in attesa di tempi migliori, consci che il potenziale del brand è comunque forte. E ora scusatemi, vado a vedere se c'è la luna piena, perché ho dei vampiri da maciullare. Buona visione.